Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Nonostante fosse sottoposto ad una misura di sorveglianza speciale, avrebbe continuato a gestire indirettamente due società clonate con sede legale a Piacenza, nel campo dell'edilizia e della carpenteria, nelle quali si sospetta venissero reimpiegati fondi riconducibili a una famiglia di Cosa Nostra. Un intreccio svelato dal giornale Piacenza Sera che ha portato il Tribunale di Palermo a disporre il sequestro delle quote sociali dei beni aziendali per una delle ditte coinvolte e la sospensione degli organi sociali della seconda azienda. Entrambe le società, secondo quanto emerso dagli accertamenti, venivano indirettamente gestite da un palermitano sottoposto nel periodo interessato dalle indagini alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e ritenuto soggetto organico alla famiglia Galatolo di Cosa Nostra. L'uomo, trasferitosi nel 99 nel Piacentino, operava attraverso una società nel settore del noleggio di macchine speciali attiva in tutto il nord Italia. Attualmente in amministrazione controllata e sottoposta alla confisca dei beni con un provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo nell'ottobre 2009. Già ad aprile 2009 gli investigatori avevano acceso i riflettori sul palermitano, in particolare dopo il crollo del ponte sul Po, continuando ad operare con mezzi e nome riconducibili alla stessa ditta, aveva infatti partecipato a numerosi appalti e forniture. Le indagini hanno appurato come l'imprenditore abbia sostanzialmente clonato l'azienda confiscata, creandone altre due in tutto e per tutto identiche. Una delle operazioni è venuta proprio a ridosso del provvedimento del tribunale, con la neonata società che è stata intesa dal nipote. In questo modo, sottolineano gli inquirenti, il palermitano continuava ad operare dietro le quinte con società apparentemente pulite, occupandosi indirettamente del procacciamento delle commesse. Buona vita a tutti!